Ricordiamo l'appuntamento di questa sera al centro sociale Pirateria. A Circonvallazione Ostiense numero 9, Mercati Generali. Un anno di pirateria, un anno di occupazione. Un anno di lotta. Questa sera cena sociale. Alla faccia degli sgomberi e delle delibere. Prezzi popolari, piatti a sorpresa. Ripeto, al centro sociale Pirateria, Circonvallazione Ostiense numero 9, Mercati Generali. Hard Raptus, spazio autoproduzioni solo su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Vi ricordiamo che è uno spazio aperto e chiunque può partecipare inviando il proprio materiale a Radio Onda Rossa, Hard Raptus, via De Volsci numero 56 00185 Roma. Oppure contattarci il sabato dalle 20 alle 24 al 49 17 50. Per le comunicazioni che viaggiano via fax il numero è 44 63 616, mentre per le sottoscrizioni il numero di conto corrente postale è il 61 80 4001. Vi ricordiamo inoltre che sono in vendita le cassette di Hard Raptus a sostegno di Radio Onda Rossa. Le potete trovare presso il centro sociale Breakout a Prima Valle, via Bernardo da Bibbiena numero 3. A Laurentino Occupato, via Giuliotti 8 al Sesto Ponte. Oppure rivolgervi direttamente a noi, sabato dalle 20 alle 24, chiamandoci al 49 17 50. Sostieni Hard Raptus, sostieni Radio Onda Rossa. Ora più presente nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre orecchie. Il miglioramento dell'impianto sugli 87.9.